Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Cara Radio 24, scrivo con l'animo in subbuglio dopo essere stata sommersa dalle notizie riguardanti il penoso caso Marrazzo, che aggiunge un'ulteriore pagina di riprovevole comportamento da parte della classe politica che ci governa, in tutto o in parte. Ora ci hanno messi al corrente che l'ultima visita del governatore del Lazio alla casa d'appuntamenti romana è costata ben 5.000 euro. Forse con quei soldi si sarebbe potuto sistemare uno dei giardini pubblici abbandonati, dove prosperano incuria e sporcizia, oppure riasfaltare anche solo una piccola strada delle tante che si trovano in condizioni disastrose in molti quartieri romani. Ma mi rendo conto che il benessere dei cittadini è proprio l'ultima preoccupazione di chi si trova ad occupare, immeritatamente come in questo caso, posti di responsabilità. Anzi, è proprio grazie a questi posti che si ritengono così privilegiati da poter soddisfare tutte le loro necessità, lecite o illecite che siano. Il costo della prestazione di cui ha usufruito il signor Marrazzo mi indigna ancora di più se lo paragono a quello di un qualsiasi giovane lavoratore che per arrivare a percepire simili guadagni si deve fare il cosiddetto mazzo e neanche in così poco tempo. A questo punto mi ritrovo a dover sempre di più dar manforte a tutta quella gioventù che in questo clima di corruzione, nepotismo e aberrante abuso dei propri poteri scalpita per cercare una sistemazione fuori d'Italia, mentre io sono sempre più convinta della mia decisione di non sostenere più alcun esponente politico, di qualsiasi genere e natura esso sia. Stefania. Marrazzo ha confessato, si è scusato e si è dimesso. Berlusconi ha confessato, cosa significa infatti non ho pagato, ed essere stato solo l'utilizzatore finale, come ha detto il suo avvocato, se non una confessione. Non si è scusato con gli italiani e le italiane per il suo comportamento, diciamo sporco o immorale, né tantomeno si è dimesso. Forse andare con i trans è un brutto esempio, mentre andare con le escort è un esempio da seguire? Gemma. Potere dà alla testa. Forse è vero. Che i nostri politici non siano votati alla santità e all'astinenza, l'avevamo già capito, ma che non si siano neppure resi conto che vengono sguinzagliati plotoni di fotografi, indagatori, spioni, che sperano di incastrarli in situazioni compromettenti, che sperano di beccarli con le mani nel sacco, con le dita nella marmellata per fare lo scoop della vita, per mettere in crisi intere coalizioni politiche, per ammazzare a suon di foto, video ed articoli chi non si può eliminare diversamente. Forse questo è incomprensibile per il cittadino semplice, che ha imparato a controllare anche le proprie telefonate, pur non avendo nulla da nascondere se non la propria privacy. E vediamo ben quante storie losche vengono alla ribalta, quelle di natura sessuale in primo piano. Ma allora, possibile siano tanto ingenui, sprovveduti, solari? Possibile che il potere li faccia sentire onnipotenti, inviolabili, incontrollabili? Quando poi scoprono di essere visti, giudicati, svergognati, allora scendono dal piedistallo e rendendosi conto di essere solo piccoli uomini, si nascondono e vorrebbero sparire. Si accorgono di essere comuni mortali e il vero stress, credo sia questo, accorgersi di non valere più di tanto. E poi queste parcelle strepitose che vengono pagate per prestazioni sessuali che immagino siano paradisiache visto le cifre sborsate, sono tutte in nero. Non lo trovo giusto. Non è giusto per chi paga le tasse su 1.000 euro al mese. Non è giusto per tutti quelli che devono lavorare 5 mesi, tutti i giorni, per incassare quelle somme. La prostituzione deve essere considerata un lavoro, e come? Del resto, sono le stesse persone che la esercitano a riconoscere che per loro è un lavoro. Lasciando fuori dal problema le ragazze costrette e sfruttate dal racket, e si capisce subito la differenza, è forse arrivato il momento di considerare l'aspetto contributivo della professione prostituta, di qualsiasi sesso sia. Le escort, i trans, tutti questi bei personaggi che riempiono le prime pagine dei giornali, non raccontateci che sono costretti da altri a fare quello che fanno. È una scelta della loro vita e come altri usano il cervello per lavorare, altri le mani, altri la creatività, loro utilizzano altre arti e altre capacità. Tutto questo non mi scandalizza. Mi scandalizza invece che guadagnino cifre esorbitanti alla luce del sole e non contribuiscano come gli altri cittadini al bene comune. Non sono vittime. Sono persone che decidono di svolgere attività redditizie ed esentasse, alla faccia di chi suda per avere uno stipendio che viene poi gravato di contributi e imposte. Giulia. Scrivo a proposito delle tasse e della crisi delle piccole e medie imprese. Quello che secondo me è necessario al Paese è una serie di riforme strutturali e complessive, magari fatte per gradi, ma con un obiettivo e un progetto cui tendere. Il Paese è invece bloccato per tutte le lobby che scendono in campo ogni volta che qualcosa si muove e cambia. Le medie e piccole imprese, così come tutti i cittadini, non hanno bisogno di un annuncio sulla riduzione dell'IRAP, ma di una diversa concezione del sistema fiscale. Ad esempio, tassare meno i redditi da lavoro ed impresa e tassare maggiormente le rendite di tutti i tipi. Mi sembra normale che la tassazione separata per le rendite da capitale sia del 12,5% al di sotto della media europea e quella sui conti correnti sia invece prossima al 30%? Gli unici che nel governo fanno qualcosa sono Brunetta e la Gelmini, ma con quanta difficoltà. Sul lavoro bisognerebbe invertire il trend dei costi, ossia quello instabile dovrebbe costare di più, mentre quello a tempo indeterminato di meno. Ma anche qui i sindacati difendono la loro lobby, ossia gli occupati e i pensionati. Ogni volta che si parla di riforma del sistema previdenziale, chi si oppone lo fa a danno delle nuove generazioni e in favore di chi è più forte, ossia i cinquantenni occupati a contratto indeterminato, che sono prossimi alla pensione, contro i trentenni a tempo determinato che non sono rappresentati dai sindacati. Ecco un'altra lobby che blocca la sostenibilità del sistema Italia. Sarò io troppo pessimista? Avrà ragione Tremonti quando dice che, tutto sommato, il nostro modello produttivo è quello da esportare? Non credo che quel 90% delle imprese italiane che rappresentano l'Italia che conta, quella che investe e fa andare avanti il paese, la pensi come lui. Marco. Gentile direttore, la tanto attesa quanto necessaria legge sulla tutela della dislessia e degli altri disturbi specifici di apprendimento, disgrafia, disortografia, discalculia, sta seguendo il suo lungo iter legislativo. C'è da augurarsi che si concluda al più presto, per consentire di salvare il futuro di tanti bambini e ragazzi intelligenti ed evitare esperienze come quella che ci ha visto direttamente coinvolti. Mio figlio, in prima elementare, a soli 6 anni, è stato annientato nella sua identità di persona dall'ignoranza, dall'insensibilità e dalla superficialità delle sue insegnanti e del dirigente scolastico. Reputato incapace, stupido, svogliato e pigro, è diventato in soli pochi mesi un bambino depresso e psicologicamente distrutto. Ed invece, era semplicemente molto intelligente e dislessico. Finalmente il nostro incubo aveva un nome ed una spiegazione. Così abbiamo iniziato l'opera di ricostruzione e abbiamo recuperato, seppur con fatica e lentamente, il bambino felice di un tempo. Ora ha 10 anni e frequenta la quinta elementare, ma le difficoltà sono sempre dietro l'angolo. È sufficiente una supplente poco competente, una nuova insegnante rigida e inflessibile o una presa in giro di un compagno per riaprire in lui una profonda ferita, evidentemente non ancora del tutto rimarginata. La sua autostima è un cristallo che si frantuma con un semplice tocco. Ma è un bambino che conosce il suo problema e lo sa gestire, aiutandosi anche con il computer quando necessario. Adesso a scuola va bene, tanto da essere uno dei più bravi della classe nelle materie antropologiche. Ma nelle sue ancora piccole spalle pesa un vissuto doloroso e destabilizzante, di colore rosso sangue come quello delle note e degli spietati commenti nei suoi quaderni di prima elementare. L'anno prossimo andrà alle medie e senza una tutela legislativa sarà in balia dei nuovi insegnanti. Saremo così fortunati da incappare in insegnanti che sanno cosa sono i DSA e hanno capito che è la didattica a doversi adattare al bambino e non viceversa? Affidarsi alla fortuna quando si tratta del futuro di un bambino non è cosa all'altezza di un paese che si reputa essere civile. Aspettiamo ancora una legge, ma nel frattempo, che si sappia, l'incompetenza della scuola miete tante piccole indifese vittime. Laura, mamma di un bambino dislessico. Signor direttore, anche Radio 24, di cui sono fedele ascoltatore da anni, ultimamente sta cedendo ai tic linguistici dettati dal sensazionalismo dilagante. Sarà una questione futile, con tutti i problemi che ci sono, ma io non posso fare a meno di trasalire ogni volta che sento gli aggettivi straordinario e incredibile, ricorrenti in maniera insopportabile, specie se uniti al rafforzativo avverbale assolutamente. Molte trasmissioni perseguono un livello espressivo encomiabile, mentre altre abusano sempre più dei vocaboli sopracitati, lanciate nell'ossessiva iterazione di iperboli fastidiose. Per bonificare un po' questo malcostume, dovuto in gran parte al nefasto contagio televisivo, le chiederei di intervenire con la sua autorità. Per esempio, so di essere anch'io al paradosso, ma che ne direbbe di proporre una moratoria di qualche mese nell'impiego, quantomeno, dell'odiosa parola straordinario? Silvio. Caro Silvio, ha ragione. Spesso il linguaggio dei conduttori e dei giornalisti si lascia trasportare dal gusto dell'iperbole da una parte o dai luoghi comuni dall'altra. Non è per giustificarmi o giustificarli, ma ci sono due elementi che la prego di considerare. Nella maggior parte dei casi, chi conduce un programma lo fa a braccio, senza un testo scritto, ed è quindi facile che possa usare modi di dire correnti senza aver tempo di un'adeguata riflessione. E poi l'eventuale ricerca di frasi forbite o culturalmente evolute potrebbe rivelarsi controproducente per il rischio di creare un distacco fittizio tra chi parla e chi ascolta. In fondo, non possiamo staccarci dalla realtà anche linguistica in cui viviamo. Si tratta di avere pazienza. Qualche tempo fa non c'era discorso in cui non si pronunciasse la parola importante. Ora va di moda lo straordinario. Passerà, mi creda, ma mi permetta, non bisogna nemmeno esagerare con le richieste di normalità. L'informazione, alla radio come sui giornali, è fatta per mettere in risalto quello che colpisce, quello che cambia il normale corso degli eventi, quello che in fondo è fuori dall'ordinario. Possiamo quindi essere d'accordo solo in parte per istruire una moratoria sul termine straordinario, perché sarebbe, ahimè, straordinario riuscire a abolirlo del tutto. Erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Continuate a scriverci.